Prima edizione. L'informazione del mattino. Sì, sincero, anche tu sai che appartieni a Vito. Tu sei necessaria non solo a lui, ma al suo lavoro. Se egli parte e tu rimani qui, un giorno saresti presa dal rimorso. No. Non oggi, forse, nemmeno domani, ma presto o tardi. L'avete riconosciuto, Casablanca, uno dei monumenti della storia del cinema. Per aprire questa mattina, prima edizione, buona giornata ancora da Anna Migliorati. La nostra copertina l'abbiamo dedicata questa mattina a Casablanca perché compie 70 anni. La Warner Bros. Ha deciso di festeggiare, lo farà, guarda caso, su Facebook. I cinefili sono stati invitati a preparare popcorn, ad accomodarsi davanti allo schermo del loro computer per godersi una proiezione gratuita. Così la celebre casa di produzione ha annunciato nella notte italiana che trasmetterà in streaming sul social network globale il celebre film del 1942 con Humphrey Bogart, l'avete sentito, Ingrid Bergman, vincitore di 3 premi Oscar. Per farlo ci si dovrà collegare all'1 della prossima notte. Allora, buon compleanno Casablanca, che compie 70 anni. E dopo questo piccolo assaggio per aprire prima edizione, siamo alle prime pagine dei quotidiani, invece, con i temi di oggi, temi che sono, come vi anticipavo poco fa, in GR24 sostanzialmente economici e dedicati alla situazione in Europa che non lascia ben sperare, dopo che ieri Atene ha fallito e dunque tornerà al voto il prossimo 17 di giugno. Carrellata di titoli questa mattina, cominciando dalla Repubblica: Merkel e Hollande, salvare la Grecia, Atene nel dramma, il presidente francese primo vertice con la cancelliera, Grecia nel caos, allarme in Europa per il Messaggero, La Stampa, caos Grecia, l'Unione Europea corre ai ripari, e ancora il Corriere della Sera: lavoriamo per salvare l'Unione Europea, vertice Merkel Hollande, misure per lo sviluppo. Il Sole 24 Ore: la Grecia spaventa l'Europa, borsa in caduta, spread a 439. Così il titola il Sole 24 Ore, dove il commento di questa mattina è a firma di Adriana Cerretelli: se Grexit non è più tabù, errori da rigore, scrive Adriana Cerretelli. Grexit, in gergo l'uscita della Grecia dall'euro, era un tabù intoccabile. Da qualche giorno invece non si sa se sia diventato un bluff, un ricatto o l'incubo dietro l'angolo che assilla i 17 della moneta unica. Così oggi scrive il Sole 24 Ore, che ci ricorda anche che Hollande, ieri incontrando la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha premuto su un tasto caro all'Italia, ha chiesto gli eurobond. Altri commenti, altre analisi, ce ne sono molti sui quotidiani di oggi. Bernardo Valli sulla Repubblica scrive: ciò che divide Berlino e Parigi, equilibrati e rispettosi uno dell'altro, ecco come sono apparsi ieri sera Angela Merkel e François Hollande alla fine del loro primo incontro. La prima era il campione dell'austerità, il secondo il campione della crescita, dunque in aperta tensione sul terreno che oppone le due ideologie nell'Europa frustrata dalla crisi e ferita nella sua coesione sociale. Le due posizioni sono rimaste per ora inconciliabili. Così Bernardo Valli, le due anime dell'Europa, ciò che divide Berlino e Parigi. Questo il tema, sicuramente in primo piano, lo sarà anche per noi in GR24 più avanti. Ci sono naturalmente altre questioni. Taglio centrale del Sole 24 Ore: le imprese di costruzione in rivolta, lo Stato paghi o sarà ingiunzione? Perché è stato anche il D-Day dell'ANCE. Le aziende vanno dato crediti per 19 miliardi, dicono siamo allo stremo, 7.500 aziende sono fallite. Ieri c'è stata la rivolta delle piccole contro lo Stato. Ora fatti e nervi saldi, anche qui un altro commento sul Sole 24 Ore a firma di Guido Gentili. Altra questione aperta che merita il taglio, si guadagna il taglio centrale su molti quotidiani quest'oggi in edicola, è la legge sulla corruzione. È arrivata in commissione, è arrivata dunque in Parlamento, ma è passato un emendamento PDL UDC FLI che di fatto, con l'assenso del governo che poi però ha corretto il tiro, ha svuotato il reato di falso in bilancio così come era stato pensato dal ministro Severino. E allora corruzione, il veto PDL affossa la legge, ha annacquato anche il giro di vite sul falso in bilancio. Il taglio centrale della Repubblica è Stessa scelta anche per il messaggero anticorruzione. Il PDL frena, emendamento azzera il falso in bilancio. Severino, il ministro Severino, che però in questi giorni è in visita negli Stati Uniti, dice in aula comunque si cambierà. Altra questione, invece taglio centrale sulla stampa, ed è il forte attacco delle banche italiane contro Moody's, che ne ha declassate 26. L'ABI attacca dopo l'ultimo declassamento di 26 istituti di credito, un'aggressione all'Italia, banche rivolta contro Moody's. Il vero peccato delle agenzie è arrivare tardi, così il commento di Francesco Manacorda sulla stampa. No, non ha certo ragione chi dal mondo politico, da quello industriale, da quello bancario, grida con toni altissimi al complotto anti-italiano delle agenzie di rating, ma conclude un peccato c'è ed è quello di arrivare tardi. Taglio centrale del Corriere della Sera, diverso, dedicato invece alle dimissioni del sottosegretario alla giustizia Zoppini, sotto inchiesta per frode fiscale, sottosegretario indagato, chiarirò, ma ora intanto lascio. Così ieri, secondo la procura di Verbania, Zoppini, attraverso una consulenza prima del suo incarico al ministero, avrebbe aiutato un'azienda a realizzare una frode fiscale internazionale. Si sta indagando su di lui e lui ha deciso di dimettersi. A fianco sul Corriere della Sera l'altra notizia che riguarda invece le nuove BR, le minacce in tribunale dei nuovi brigatisti rossi, un appello alla sovversione violenta è andato in scena ieri in un'aula di tribunale a Milano. Queste le notizie principali, poi ci sono molte altre notizie che hanno spazio sui quotidiani. 6:24 minuti in questo istante, allora un paio di minuti ancora ce li abbiamo, qualche segnalazione ve la faccio anche oggi. Allora, cominciare, visto che siamo sul Corriere della Sera, dal taglio basso del Corriere della Sera, dove ci sono due notizie. Una riguarda il caso della Torre Galfa di Milano, occupata per 10 giorni, e ieri mattina c'è stata lo sgombero deciso dal Comune di Milano tra molte proteste. Occupare è un reato, ma ascoltiamo i giovani, così dice il Corriere della Sera. Che è successo? Che questo gruppo di giovani, che si definiscono creativi, in cerca di spazio aveva occupato la Torre Galfa, è stato sgomberato. Il Comune di Milano dice: dobbiamo trovare però un altro spazio, i giovani vanno ascoltati. E poi la ricchezza dei piccoli centri italiani, altra notizia oggi sul Corriere della Sera. Tra i capoluoghi di provincia, secondo i dati diffusi dal Ministero delle Finanze, Milano batte Roma, e questo già lo sapevamo da molto tempo, ma c'è anche la classifica dei piccoli comuni. Il record va a un paese del Torinese, si chiama Pino Torinese, il reddito medio di oltre 30.000 euro, 351 i paperoni, il 6,9% dei cittadini, con una dichiarazione da oltre 100.000 euro, così il Corriere della Sera. Sulla stampa un'altra segnalazione, allora andiamo proprio sul quotidiano di Torino, un esperimento interessante. Io finta tredicenne clandestina su Facebook, Flavia Amabile su Facebook si è finta una tredicenne per vedere che succede in rete ai più giovani. Il 90% dei ragazzi di terza media sul social network, e c'è chi viola le regole. Sull'età il racconto di questa inviata in rete, io finta tredicenne clandestina su Facebook, questa mattina sulla stampa. E a proposito ancora di online, solo un dato invece che arriva da La Repubblica, perché oggi verranno presentati i dati del e-commerce al forum di Milano, vale dire il commercio online. Boom di vendite, l'Italia consuma sul web, questo sarebbero i dati. Un più 20% nel 2011, un più 18% si attende nel 2012. Il giro d'affari è ancora molto ristretto, ma sembra che gli italiani stiano scoprendo anche il web come via di consumo. Boom di vendite online, l'Italia consuma sul web, scrive quest'oggi La Repubblica. Solo un istante, allora la Gazzetta dello Sport, oggi il giallo Ibrahimovic, come vibra, nuove voci di cessione, poi la smentita del Milan, situazione di stallo, c'è l'incognita City che può mettere sul piatto Tevez, così il calciomercato a dominare sulla Gazzetta dello Sport, con le nuove voci sull'addio

Grazie, grazie Daniele Biacchessi e buona giornata di nuovo anche da Anna Migliorati. 6:39 minuti, 30 secondi, seconda parte di prima edizione. Di che parliamo oggi? Di un personaggio eccellente che tornerà sotto i riflettori, perché dopo una prima apparizione lampo un anno fa al suo arresto, questa mattina inizia al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia il processo a carico dell'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic. Tra le accuse, lo sapete, l'assedio di Sarajevo durante la guerra di Bosnia del 92-95, poi il massacro di 8.000 musulmani a Srebrenica, era luglio del 95. Si inizia tra 2 ore e mezza, alle 9 di questa mattina, e allora io saluto Luca Zanoni dell'Osservatorio sui Balcani. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. 17 anni sono passati dal massacro di Srebrenica, dalle vicende della guerra in Bosnia. C'è chi da 17 anni aspetta. Oggi dovrebbe essere il giorno del processo. Lo aspettano le vittime, lo aspetta anche la storia, secondo te? Diciamo che l'obiettivo è sempre la verità, in qualche modo, sia della storia, della ricerca storica, che quello della giustizia, però con percorsi differenti. Non è la prima volta che Mladic appunto compare in aula, la sua prima apparizione l'aveva fatta il 3 giugno dell'anno scorso, quindi 15 giorni dopo l'arresto. Il processo sarà sicuramente lungo, si parla di oltre 400 testimoni, di cui due esperti, che dovrebbero iniziare, dico sempre il condizionale perché appunto vediamo come procede, il 29 maggio prossimo. Oggi sono passati 17 anni, quella zona com'è? Ci sono ancora ferite aperte? E poi l'altra domanda, Mladic invece com'è? L'anno scorso, lo accennavi tu, l'abbiamo visto, ha fatto anche un certo effetto, visto in TV le immagini che si sono viste. Ecco appunto quella zona e Mladic, 17 anni dopo. Beh, le ferite sono aperte, le ferite si è visto che sono aperte anche durante il ventennale dell'inizio dell'assedio a Sarajevo il 6 aprile scorso. Sono molto molto aperte ancora, è difficile anche perché i politici, che hanno una grossa responsabilità in quello che abbiamo detto del processo di riconciliazione e quindi di una sorta di catarsi di quello che collettiva anche appunto sociale, hanno soffiato sempre, hanno messo benzina sul fuoco, cioè hanno alimentato quelle spinte nazionaliste. Faccio un esempio, non molto tempo fa su uno dei portali della Repubblica Srpska, quindi quell'entità della Bosnia Erzegovina che è a maggioranza serba, si facevano gli auguri a Mladic e Karadžić. Cioè, non ovviamente in chiave diciamo ufficiale, ma in modo molto visibile, insomma. Quindi c'è lavoro da fare, sì. E lui non ha rinnegato nulla, questo ricordiamolo, cioè ancora esattamente ecco, sulle sue posizioni. Esatto, mi chiedevi anche di lui, sì, lui in realtà nonostante l'impressione iniziale che fece quando appunto lo arrestarono, che era il 26 maggio del 2011, quindi un anno fa, che sembrava quasi una persona così indifesa, uno sguardo smarrito, stupito, ma ha dimostrato di essere chi è in realtà, di essere Ratko Mladic, e ribadendolo di fronte a un pubblico internazionale perché era in diretta live, dice io sono il generale Ratko Mladic, tutti sanno chi sono, ma certo che non è pentito per niente, anzi ha detto signori io qua voglio vedere tutti i testimoni, albanesi, croati, fatemi parlare con loro direttamente, io sono stato nell'esercito e Mladic è un militare che inizia da militare e finisce da militare. E allora da oggi vedremo se cominceranno davvero a sfilare sul banco questi testimoni per cercare comunque di mettere, almeno come dicevi dal punto di vista della giustizia, un tassello in più a tutta questa storia. Grazie Luca Zanoni, Osservatorio dei Balcani. Grazie a voi, arrivederci. Alle 9 si comincia in aula all'AIA, ve lo racconteremo in GR24. E nel frattempo c'è altro che vi raccontiamo questa mattina con prima edizione, perché c'è invece chi ha lavorato tutta la notte della Commissione Lavoro al Senato. La nostra seduta notturna si è conclusa attorno alle 3 della notte, riprenderà alle 8:30 questa mattina, si va a tappe forzate per arrivare forse domani a quest'ora al primo sì parlamentare alla riforma del lavoro. Questa notte è arrivata qualche piccola novità e allora ce la racconta ancora Katia Caramelli. Buongiorno ancora. Sì, buongiorno. Nel primo giorno di esame sono stati vagliati i primi 6 articoli del testo, che complessivamente ne contiene 72. Vediamo quali sono le novità a cui accennavi anche tu, Anna. Si allunga da 6 mesi a 12 mesi la durata del contratto a termine senza causale, mentre viene ridotto a 20-30 giorni dai 60-90 previsti dal governo l'intervallo tra contratti a tempo determinato per avviare nuove attività. Novità anche per quanto riguarda l'apprendistato: si potrà sempre assumere un apprendista, mentre nel testo originario l'assunzione era vincolata alla trasformazione del contratto per almeno il 50% degli apprendisti in azienda. Infine, per attivare il lavoro a chiamata basterà inviare un SMS alla direzione provinciale del lavoro. In caso di mancato avviso, i datori di lavoro rischieranno da 400 a 2.400 euro di multa. Il lavoro a chiamata sarà libero per gli under 25 e gli over 55. Abbiamo fatto un buon lavoro, ha commentato al termine della seduta il sottosegretario Martone. Un lavoro intenso e proficuo. Staremo a vedere. Grazie Cata Caramelli, alle 8.30. A questo punto sì, si ricomincia, ci sarà un'altra seduta notturna, ve lo racconteremo anche domani mattina. Grazie nel frattempo. A voi. E c'è il traffico alle 6.45 minuti, ci risentiamo tra poco. Prima edizione. È andato tutto bene o quasi per le elementari. Oggi i famosi test INVAL si sbarcano alle scuole superiori e si annuncia bufera. L'Unione degli studenti ha annunciato che oggi li boicotterà in centinaia di scuole. Protestano anche i COBAS, così come il sindacato dell'ANIEF. Insomma, oggi ci saranno o no i test? Noi abbiamo avuto ospite la scorsa settimana e allora lo abbiamo invitato anche oggi, il commissario straordinario dell'INVAL, Paolo Sestito. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. La domanda è: vi aspettate le proteste allora questa mattina nelle aule? Ci aspettiamo che ci possano essere proteste, non facciamo previsioni perché non è il nostro lavoro di fare previsioni. Speriamo che la partecipazione ai test rimanga elevata e significativa come è stato per le altre classi, perché pensiamo che servano alla scuola, al sistema nel suo complesso e alle singole scuole. Non vediamo sinceramente cosa ci guadagni una scuola, una classe, uno studente anche a non partecipare a questa occasione per conoscere il sistema nel suo insieme e dove poi quella scuola, quella classe, quello studente anche volendo si colloca. Penso che sia un diritto per tutti gli studenti quello di sapere cosa stanno facendo, se le cose che fanno nella loro classe sono, come dire, in linea, sono nel quadro generale, di essere valutato, insomma, che sia valutato quello che gli viene insegnato. È questo il vostro? Il punto è che diciamo credo che gli studenti debbano tener conto che ovviamente questi test non hanno la finalità di valutare il singolo studente. Tutti gli studenti che oggi parteciperanno hanno partecipato negli anni precedenti a un test in cui effettivamente le prove INVAL sono servite, ma solamente parzialmente nell'esame di terza media a valutarli. La finalità dei test di oggi non è certo quella, ma è quella semplicemente di vedere la loro classe, la loro scuola dove si colloca, e questo di dirlo a loro, non ad altre persone, di comunicarlo alla loro scuola. Senta, l'ANIEF ha obiettato che non è uno strumento operativo adatto perché va valutato anche il gruppo classe, la famiglia di provenienza, il territorio circostante. Guardi, sono elementi ovviamente veri, noi non cerchiamo di valutare, le prove cercano di valutare il livello degli apprendimenti e delle competenze degli alunni, cerchiamo di avere informazioni che possano tener conto del contesto, quindi cerchiamo di avere informazioni che possano tener conto di quali possono essere le determinanti di un livello più o meno elevato. Quando si parla in termini gergali spesso si parla di valore aggiunto, quindi con una connotazione un po' economicistica del dato, ma il valore aggiunto delle scuole non è altro che il livello degli apprendimenti tenendo conto delle condizioni del contesto, delle condizioni di partenza. È proprio per questo che per esempio nelle rilevazioni ci sono anche delle richieste di informazioni anonime in cui si chiede: ma nella tua famiglia quanti libri ci sono, quali sono le attività che vengono culturali. Perché che poi statisticamente anche di questo si tiene conto. Si cerca di tener conto anche di questo. Di questi elementi. Allora, grazie. Oggi i test comunque ci saranno, proteste a parte. Noi aspettiamo allora a luglio per sapere invece come saranno andati e qual è lo stato della scuola italiana. Va benissimo, grazie a lei e buona giornata a lei e ai radioascoltatori. E ai ragazzi che saranno in aula naturalmente. Grazie al commissario straordinario dell'Invalsi, Paolo Sestito. Abbiamo solo pochi secondi, ma sufficienti per fare l'ultimo Zapping TV di questa prima edizione di questa mattina. Fabio Fazio e Saviano ieri ancora sulla 7 con Quello che non ho. Si è parlato ancora di parole. Si è parlato delle parole dei boss. Saccheggiano, ha detto Saviano, i nostri termini, le nostre parole come zio, norma, onore, famiglia, per piegarli ai loro codici. L'unico modo che si ha per rompere il rapporto di mascheramento che ha il potere criminale con la cultura criminale e tornare a nominare le cose come sono, tornare a dire le cose come sono. È per questo che in questo modo, difendendo la parola, sono profondamente convinto che difenderemo anche il nostro territorio. Difendiamo la parola, così Saviano ieri sera. Noi ci risentiamo tra pochissimo con GR24, prima edizione invece finisce qui. Buona giornata, Filippo Reggi in regia, un saluto da Anna Migliorati.